Senza dubbio è una festa che comincia domani alle 18 in un momento di grandissima importanza per la politica italiana. In queste ore, nella giornata di ieri, il Partito Democratico ha scelto in una maniera pressoché unanime di verificare le condizioni per far nascere un governo di svolta e di cambiamento. In queste settimane abbiamo tenuto tantissime assemblee nel nostro territorio per ascoltare la base, per confrontarci con i nostri militanti e volontari, e sono certo che sarà uno dei temi che discuteremo e che affronteremo all'interno della nostra festa dell'unità che quest'anno torna al Parco Nord. Siamo convinti che in questo, ascoltandoci e confrontandoci con i nostri volontari e con i tanti cittadini che verranno alla festa, sapremo portare i nostri valori, il nostro programma in questa esperienza. Senta, questa ipotesi di un'apertura ai 5 Stelle anche in vista delle prossime regionali sta prendendo corpo? Ma io credo che intanto bisogna partire dall'ottimo lavoro che in questi 5 anni il presidente Bonaccini e la sua giunta hanno fatto al governo dell'Emilia-Romagna. Sono convinto che sui programmi, così come a livello nazionale, ci si possa e ci si debba confrontare a livello locale, consapevoli che c'è un avversario che è la destra di Matteo Salvini. Siamo convinti che qui, a partire dall'esperienza di buon governo, quella destra si possa battere, e siamo consapevoli che su questo, in un confronto con i temi, dobbiamo tenerlo aperto con tutti coloro i quali hanno a cuore questa regione. Brevemente, che festa auspica? Mi auspico una festa che veda la partecipazione di tutti, una festa che, come da tradizione e come da luogo che la ospita, ossia il Parco Nord, è non la festa del Partito Democratico o di un partito, è la festa della città, è la festa a cui tutti possono partecipare e portare un contributo, è soprattutto la festa dei volontari e di chi mette grande passione nella militanza e nella vita politica. Qui volontari avete fatto riferimento più volte, come stanno reagendo all'ipotesi a questo governo, insomma? C'è una sensazione, in queste settimane abbiamo fatto tantissime assemblee, sono circa 40 da domenica scorsa in questa settimana, e c'è un grande senso di responsabilità, una maturità importante che abbiamo nei nostri iscritti, nei nostri militanti, nei nostri volontari, in un momento che è sì difficile. Tutti, ci sono dubbi, ci sono chiaramente domande, ci sono interrogativi, perché la situazione è una situazione assolutamente difficile, però credo che tutti i nostri volontari, i nostri iscritti abbiano a cuore il paese, e credo che da loro possa venire la spinta più forte per investire in questa esperienza, non con paura di fermarsi al primo miglio, ma con il coraggio di mettere tutti noi stessi i nostri valori e le nostre proposte.